avete sentito era la nostra sigla Beach and Machine di Subsonic Voodoo, ai microfoni c'è Strelka e quella che state per ascoltare è la nuova puntata dell'Orda d'Oro, un podcast dove vi caricate all'inizio ascoltando la techno e poi io vi parlo per 50 minuti della questione dell'autonomia nazionale per l'ENI nell'intersezione che c'è con l'Islam. È andata così, oggi vi beccate questo argomento. D'altra parte è un argomento che non si può evitare, secondo me, se si vuole parlare di Asia centrale oggi, se si vuole capire come si sono evolute una serie di questioni. E poi è anche un argomento interessante. Non è sicuramente un argomento che è prerogativa dell'Asia centrale, nel senso che ovunque ci sono stati dei paesi con pensatori islamici, c'è stato chi ha cercato di capire le connessioni tra l'Islam e il marxismo, però penso che in Asia centrale ci sia stato uno sviluppo particolare di queste due ideologie, una commistione particolare, in parte dovuta al fatto che l'Asia centrale è stata, diciamo, l'unica veramente regione a maggioranza islamica nel mondo in cui c'è stato un governo comunista a tutti gli effetti per un periodo di tempo abbastanza lungo da poter portare allo sviluppo di una serie di strategie di convivenza. E alcune di queste strategie hanno lasciato il segno. All'inizio vi ho detto che oggi avremmo parlato della questione della nazionalità e dell'autonomia nazionale secondo Lenin. Se siete persone che apprezzano molto gli scritti di Lenin e l'ideologia di Lenin, la questione della sovranità nazionale delle minoranze è una questione che lui ha sviluppato in dialogo con pensatori proprio dell'Asia centrale, quindi il lavoro fatto dai comunisti centroasiatici che non viene assolutamente riconosciuto ovviamente al di fuori di veramente circoli di pochissime persone in Occidente e poche più in Russia. Però il lavoro dei filosofi, degli analisti centroasiatici, dei comunisti centroasiatici è stato molto importante, è stato fondamentale per mettere le basi di quella che poi è stata la politica di gestione delle minoranze, di autodeterminazione dei popoli che comunque è poi stata trascinata al di fuori del marxismo-leninismo. E quindi penso che sia importante capire da dove è nata. E mentre cercavo di ordinare un po' le idee su quello di cui avrei voluto parlare oggi, mi sono accorta di due cose. La prima è che parlare di questo argomento in una puntata solo è troppo lunga, non ce l'avrei mai fatta, e quindi questa puntata, ve lo dico, arriva divisa in due. Ma poi mi sono resa conto che, secondo me, ci sono due modelli in particolare di relazione che ritornano, che mi sembravano molto interessanti, che sono nati in Asia centrale in momenti molto specifici della storia, ma che hanno preso vita propria e che trascendono appunto i confini spazio-temporali del periodo in cui sono nati. Sono due modelli che in particolare a me sembrano interessanti perché sono esemplari di quello che alcuni studiosi dell'Islam chiamano la terza via dell'Islam. Cioè, all'interno di questo panorama appunto veramente immenso di pensatori che hanno scritto e studiato le dinamiche di oppressione, colonialismo, le possibilità di liberazione all'interno di framework marxisti, anarchici, eccetera, si è strutturato questo pensiero che i grandi sistemi ideologici dell'Islam e del marxismo hanno una relazione oppositiva e si possono avere soltanto due risposte. Una è la prima via, che è quella proposta dall'Islam, ovvero che se per un fedele musulmano la propria identità come musulmano è fondamentale e prende il sopravvento sull'ideologia politica, e quindi l'Islam rigetta il marxismo, in particolare se vi interessa la motivazione, io non sono in grado di spiegarla nei dettagli, però ci sono una serie di punti del Corano in cui la proprietà privata viene proposta come positiva, e quindi ci sarebbero una serie di pensatori islamici che credono che il marxismo sia incompatibile con l'Islam per il divieto alla proprietà privata. Ve l'ho detta in 30 secondi, potete immaginarvi che c'è il mondo là fuori di gente che ci ha scritto, ci ha discusso su queste questioni. Se ne sapete di più, mandatemi una mail perché vorrei capirne di più anch'io, però prendetela come il crash course in teoria dell'Islam e marxismo. Questa è la prima via. La seconda via invece è quella proposta dall'Unione Sovietica, che quindi va in direzione completamente opposta, in cui la figura del compagno in primis è atea, e quindi non c'è possibilità di mantenere credenze religiose se ci si muove all'interno di questo framework. Una serie di disclaimer sulla maniera in cui poi l'Unione Sovietica si interfaccerà con diverse religioni, perché sui territori dell'Unione Sovietica le religioni sono tante, sono molto diverse, hanno maniere diverse di concepire il potere all'interno dell'organizzazione religiosa, quindi non vengono tutte trattate nello stesso modo, non sono tutte oggetto di repressione, come invece vogliamo forse credere in maniera molto semplicistica in Occidente, però fondamentalmente questa è la visione del partito. Le terze vie sono invece modelli in cui si cerca di capire dove ci possa essere una connessione di intenti, dove si possa lavorare insieme. E secondo me questi modelli di terze vie, secondo me, sono generalmente più interessanti degli altri due, perché sono comunque dei tentativi di unificare una serie di concetti religiosi che di fatto nell'Islam sono già concetti politici, per cui cercare di politicizzare una serie di comportamenti che l'Islam invece già teorizza sulla base individuale, no? Quindi l'Islam tradizionalmente vede, per esempio, nella redistribuzione dei beni, ovviamente non chiamata così, però un valore che il fedele musulmano deve avere. Quindi c'è la istituzionalizzazione del concetto di elemosina, per cui il fedele ricco deve dare parte dei suoi soldi alla comunità per aiutare i suoi fratelli poveri. Questa è un'idea che, se venite appunto da un framework marxista anarchico che si voglia, comunque non è difficile immaginarsi come fattibile. E di fatto questi modelli di terze vie non sono poi così diversi da il tentativo che hanno fatto pensatori cattolici di fare fondamentalmente la stessa cosa. E infatti vedremo che uno di questi modelli è stato effettivamente influenzato dalla teologia della liberazione. Comunque, per non spoilerarvi troppo, vi devo almeno dire come ho deciso di strutturare queste due puntate. Quindi ho deciso che vi parlerò di questi due modelli e che lo farò attraverso le due figure che secondo me li incarnano. Quindi parleremo di Mirsad Sultan Ghaliyev, pensatore tataro nato alla fine dell'Ottocento, collaboratore stretto di Lenin, che è stato appunto la persona che ha aiutato a sviluppare la questione i ragionamenti sulla questione del nazionalismo da parte di Lenin, e l'altro invece un nome che probabilmente avrete già sentito, quello di Ali Shariati, sociologo, studioso di religioni, filosofo, pensatore iraniano, suo malgrado diventa diciamo il filosofo della rivoluzione iraniana del 1979. Oggi iniziamo da Sultan Ghaliyev. Iniziamo da Sultan Ghaliyev perché viene prima cronologicamente, ma anche perché non riusciamo a capire cosa ha cercato di fare Ali Shariati se non siamo in grado di capire qual era il panorama esistente delle relazioni tra marxismo e Islam che Sultan Ghaliyev ha praticamente iniziato, ha dato l'avvio alla serie di discussioni. E quindi adesso mi fermo per una pausa musicale e questa canzone che stiamo per ascoltare arriva con una storia. Stiamo per ascoltare una canzone tradizionale bashkira che a me piace molto. La Bashkiria è una delle repubbliche della Federazione Russa, oggi non ha più questo nome, si chiama Bashkortostan. E questa è una canzone che io ho scoperto su Radio Wombat dal programma di Slick Chick. In una puntata, Bloody Mary ci ha fatto ascoltare una serie di registrazioni dall'archivio di Alan Lomax, un etnomusicologo americano famosissimo. E Lomax ha girato negli anni 60 l'Unione Sovietica alla ricerca di canzoni tradizionali che la gente riproducesse per lui. E questa è una canzone che mi ha stupita molto perché ha delle sonorità che io non mi aspettavo per il tipo di musica della regione. È una canzone che mi sembra quasi c'entri di più con l'opera cinese che non con le popolazioni di lingua turca dell'Unione Sovietica. Ed era una canzone che volevo farvi ascoltare a tutti i costi. E mentre mi andavo a rileggere alcuni dettagli sulla canzone, mi sono resa conto che parla del fiume Sterlè, il titolo della canzone è appunto Sterlè, che è il fiume della regione della Bashkiria dove è nato il nostro Mir Said Sultan Ghaliev. E quindi ho pensato quale migliore occasione per farvi ascoltare questo capolavoro, e quindi questa è Sterlè. Oh! E questa quindi era Sterlè. E mi sentirete pronunciare tante parole con l'accento sull'ultima sillaba. Questo perché tante famiglie della lingua turca e anche tante altre lingue non turche ma dell'area hanno questa regola, però effettivamente non sono sicura che il bashkiro segua questa regola. Nel dubbio vado per probabilità e quindi lo dico così. E se mi sono sbagliata mi dispiace, non era mia intenzione. E partiamo quindi da Mir Said Sultan Ghaliyev. Vi dico subito che Sultan Ghaliyev è un nome che è fondamentalmente sconosciuto in Occidente perché gli scritti di Sultan Ghaliyev sono stati censurati dal Partito Comunista Sovietico per via di una serie di posizioni di cui parleremo oggi che lui aveva avuto. Non soltanto questo, ma Sultan Ghaliyev è stata una delle prime e secondo alcuni storici addirittura la prima vittima delle purghe staliniane, quindi stiamo parlando di un personaggio che scompare dalla scena della produzione appunto filosofica e politica marxista-leninista abbastanza presto. Mir Said Sultan Ghaliyev nasce in Bashkiria nel 1892. Nasce da una famiglia abbastanza particolare perché il padre è figlio di contadini che è diventato un insegnante di scuola elementare rurale, una persona molto orgogliosa di questa sua funzione e molto convinta della funzione dell'educazione nel miglioramento della vita delle persone. La madre invece è una principessa tatara di una famiglia nobile decaduta, quindi che si trova in povertà e che però è molto orgogliosa e consapevole delle proprie origini nobili. Con questa famiglia Sultan Ghaliyev si trova subito immerso in una serie di conflitti di classe che lui all'epoca non riesce a concepire in questo modo, ma di cui sappiamo che appunto inizierà a prendere coscienza nel suo futuro. Decide di diventare anche lui insegnante e inizia a questo punto una serie di peregrinazioni in giro per il mondo di lingua turca per la sua formazione. Sappiamo dagli scritti che lui ha lasciato che questo è un momento che gli cambierà la vita. Lui si trasferisce prima in Tatarstan e poi in Azerbaigian, dove inizia ad entrare in contatto con una serie di pensatori che sono in forte opposizione, pensatori centroasiatici, che sono in forte opposizione con l'impero russo. All'epoca tutte queste zone di cui stiamo parlando sono province orientali, colonie dell'impero russo, e Sultan Ghaliyev inizia a notare che all'interno di tutte queste province dell'impero c'è una distribuzione della ricchezza che è molto ineguale ma che si struttura lungo delle linee che lui chiaramente identifica come linee di razza. Lui parla di etnie, etnia è il termine che poi anche verrà mantenuto all'interno dell'impianto politico dell'Unione Sovietica. Lui non ha ancora questo concetto di etnia veramente strutturato in testa, è un concetto che poi lui svilupperà più avanti, però si rende immediatamente conto del fatto che diciamo all'interno di queste province i turchi sono poveri e gli slavi invece sono ricchi e quindi c'è una discriminazione nelle possibilità offerte alle due popolazioni. Quando si trova a Baku conosce una serie di personaggi che gli cambiano la vita, che sono figure che sono fondamentali nello sviluppo delle rivolte che poi porteranno l'Asia centrale a ribellarsi contro l'impero russo e a allearsi con l'Unione Sovietica. Nel 1916 l'impero russo prende la decisione molto impopolare di eliminare l'esenzione alla leva nei confronti dei cittadini musulmani dell'impero. Io vi devo dire la verità, non ho idea e non mi ricordo assolutamente di quale sia la motivazione per cui ci fosse questa esenzione, di come ci si è arrivati storicamente, eccetera. Mi immagino che potrebbe essere stata una negoziazione con gli emiri degli Emirati dell'Uzbekistan per convincerli ad allearsi con l'impero russo, non ne ho idea, però fatto sta che esiste questa decisione storica che i cittadini musulmani non servano all'interno dell'esercito dell'impero. Nel 1916 questa esenzione viene eliminata e in Uzbekistan si forma un gruppo di guerriglieri chiamati Basmachi, che letteralmente vuol dire i briganti, che prendono possesso delle montagne dell'Uzbekistan, soprattutto nella valle del Fergana, e che iniziano una serie di attacchi contro l'impero russo. Questi attacchi poi diventeranno vere e proprie azioni di guerriglia che si struttureranno attorno ad un movimento di rivendicazione di unità nazionale turca, che poi avrà anche degli scontri con l'Unione Sovietica molto più in là, quindi questo movimento dei Basmachi prende vita propria, continua nella storia. In realtà, per l'esperienza di Sultan Raliyev, questo è il punto dove la sua cammino parallelo con i Basmachi si interrompe, perché lui appunto nel 1916 inizia a frequentare questo circolo di intellettuali che poi saranno fondamentali nello sviluppo del movimento Basmachi, ma nel 1917 incontra il comunismo. Sappiamo del suo incontro con le teorie di Lenin, perché lui stesso ne ha scritto. E Sultan Raliyev parla di questo momento come proprio un momento in cui lui inizia a vedere attorno a sé, per cui un momento in cui lui apprende una serie di vocaboli che gli servono per spiegare la propria situazione e inizia a fare una serie di ragionamenti che lo porteranno poi a prendere delle posizioni anticolonialiste e antiimperialiste, anche contro l'Unione Sovietica, molto presto nella storia, in momenti in cui nessuno era ancora pronto a parlare dell'Unione Sovietica come di una potenza imperialista. Quindi nel 1917 Sultan Raliyev, a 25 anni, giovanissimo, viene ammesso all'interno del comitato delle minoranze, dei popoli, quello che è il Narkom sotto la direzione di Stalin all'epoca, e viene assegnato come delegato al Comitato Centrale Musulmano. Serve nel comitato per qualche anno durante la controrivoluzione, combatte nella città di Kazan ed è un personaggio fondamentale nella difesa di Kazan dall'Armata Bianca, per cui acquista anche all'interno del suo gruppo di compagni la fama di essere una persona particolarmente dedita alla causa, e nel 1923 improvvisamente viene arrestato. Viene fatto arrestare da Stalin in un momento particolarmente complicato, perché è il momento in cui Lenin ha appena avuto il primo attacco di cuore e quindi è il momento in cui Lenin morirà nel 24, però si inizia a capire che insomma la leadership del partito non è più così stabile e scattano una serie di proteste. Quando viene arrestato, nell'accusa che gli muove Stalin, viene scritto che Sultan Raliyev già negli anni 20 era stato colpevole nel 1920 di una serie di attività antirivoluzionarie. Quindi sappiamo che già dal 1920 Stalin sta cercando più o meno di fare fuori Sultan Raliyev. Sultan Raliyev non si sente in pericolo inizialmente perché era uno stretto collaboratore di Lenin. Dalle sue lettere noi sappiamo che fino all'ultimo Sultan Raliyev era convinto che Lenin sarebbe intervenuto all'interno di questo processo e che lo avrebbe fondamentalmente liberato e difeso. E questo probabilmente sarebbe anche successo perché l'arresto di Sultan Raliyev è la motivazione che spinge Lenin a scrivere la famosa pubblicazione sulla questione del nazionalismo. Quindi c'è. possibilità di credere che questo sarebbe successo, purtroppo Lenin muore prima. Quindi, morendo nel 1924, Sultan Raliev viene prima inviato in un campo di lavoro, questo succede nel 1928, e da lì, dopo essere stato 10 anni all'interno di un campo di lavoro, nel 1939, momento storico in cui la Seconda Guerra Mondiale impone l'unificazione nazionale, Stalin lo fa fucilare definitivamente con tutta la sua famiglia. Quindi così si interrompe la carriera di Mirsaid Sultan Raliev. Mi fermerei ancora per un'altra pausa musicale a tema e poi continuiamo parlando di quali sono alcune dei pensieri di quello che ci ha lasciato Mirsaid Sultan Raliev oggi. Thank you. E questa era l'inconfondibile punk islam dei CCCP. Fino a qui potreste esservi fatti dalla storia che vi ho raccontato un po' l'idea che, sì, in fin dei conti questo Sultan Raliev, interessante, però sembra una figura un po' di secondo ordine, no? Ha vissuto di fatto, stata una forza politica solo fino al 23, fatto fuori quasi subito, viveva in Asia centrale. Però Sultan Raliev è stato veramente una forza che ha avviato una serie di ragionamenti su quello che poteva essere il rapporto tra l'Unione Sovietica e il concetto di colonialismo e di decolonizzazione, che è stato fondamentalmente soppresso con l'arrivo di Stalin. Se Sultan Raliev fosse vissuto di più, il suo ragionamento avrebbe sicuramente preso una serie di direzioni che poi sono arrivate con il movimento terzomondista, per cui lui viene visto come un precursore del movimento dei paesi non allineati. Ed è un personaggio che sicuramente aveva avuto una serie di posizioni molto scomode, posizioni che in fin dei conti ancora oggi non tutti sono disposto ad ammettere, per esempio, che l'Unione Sovietica prima e la Russia poi hanno una serie di posizioni colonialiste e imperialiste. E questo, appunto, Sultan Raliev già negli anni 20 era perfettamente consapevole di questa serie di direzioni. Quindi io penso una figura che, soprattutto nel contesto di oggi, direi, in virtù di quello che sta succedendo prima ovviamente tra Ucraina e Russia, ma poi in Caucaso tra Azerbaijan, Nagorno-Karabakh e Armenia, penso che sia una figura che è importante riscoprire. Sultan Raliev inizia il suo pensiero filosofico dalla posizione della seconda via, quella presentata dall'Unione Sovietica. Quindi lui si colloca come un fedele musulmano che però in primis è marxista-leninista. Quindi Sultan Raliev si definisce ateo, ma si rende immediatamente conto del fatto che l'Islam non è una religione come il cristianesimo. Nell'Islam non c'è una figura centralizzata che ha lo stesso potere, per esempio, del patriarca nel cristianesimo ortodosso, del papa nel cattolicesimo, e quindi il tipo di relazione col potere temporale dell'Islam è fondamentalmente diverso. Si rende anche conto Sultan Raliev, per via della sua posizione come insegnante nelle aree rurali, che l'Islam fondamentalmente dà alla popolazione una serie di valori, una serie di credenze, una serie di comportamenti morali che sono tutto sommato in linea con quello che lui vede succedere nel marxismo e nel leninismo. E quindi lui vede nell'Islam una forza politica. Porta questa sua visione dell'Islam come una forza politica all'interno del Comitato Centrale dei Musulmani. Comitato Centrale dei Musulmani di cui non so l'acronimo, peccato perché di solito sono molto divertenti gli acronimi sovietici. Porta appunto questa posizione all'interno di questo comitato, e in particolare lui individua nella popolazione tatara quello che dovrebbe essere il soggetto referente della propaganda sovietica, perché lui pensa che i tatari abbiano una dimensione di unità nazionale, di sviluppo appunto culturale e di, cioè, sviluppo anche di idee dell'intelligenza, no? del gruppo sociale dei ricercatori tatari, che sia abbastanza già avviato da poter avere un dialogo con i pensatori marxisti-leninisti. Però fin da subito lui si rende conto che esiste uno sbilanciamento tra la posizione teorica sull'autodeterminazione dei popoli, sulla libertà degli oppressi, e una messa in pratica delle posizioni teoriche del marxismo-leninismo sul territorio. Quindi lui già negli anni 20 fonda l'Internazionale dei Popoli Colonizzati. L'Internazionale dei Popoli Colonizzati un gruppo di lavoro in cui effettivamente delegati di vari paesi, colonie, si incontrano per discutere le loro condizioni sociali sotto l'oppressione. E quello che fa veramente incazzare Stalin è che all'interno di questa internazionale dei popoli colonizzati lui ci va e fa presentare una serie di delegati di paesi dell'Asia centrale. Quindi Sultan Aliyev in questa occasione politica prende chiaramente posizione contro il resto dei suoi compagni, accusando fondamentalmente l'Unione Sovietica di essere l'erede storico e intellettuale dell'impero russo, di non aver cambiato niente, di star mantenendo le popolazioni locali in una situazione di assoggettamento. E identifica nell'Islam la possibilità invece di far passare le ideologie marxiste all'interno della popolazione centroasiatica per tirarla dalla parte del marxismo, no? Per trovare il proprio spazio all'interno del marxismo-leninismo. Questa è anche sono una serie appunto di ragionamenti che lui fa insieme anche alla moglie, Rauza Chanisheva, che è stata una figura importantissima per il movimento di liberazione femminile dell'Unione Sovietica, in particolare per il movimento di liberazione femminile dell'Asia centrale. Uno dei punti cardine su cui il pensiero di Sultan Aliyev si sviluppa, oltre al fatto appunto della necessità dell'indipendenza dalla colonia, quindi spingere per avere un sistema di gestione del territorio più federalizzato che non quello centralizzato, sì, però si riordina anche attorno alla questione dei diritti delle donne, per cui il suo lavoro va su queste due correnti parallele: da una parte di combattere contro il partito centralizzatore per avere appunto più margine di manovra culturale, dall'altra invece strutturare una serie di lavori fatti per andare a sconfiggere una serie di pratiche culturali che lui vedeva come insite dell'Islam e che non erano però compatibili con il marxismo. E quindi questa era, per sommi capi, la posizione di Sultan Aliyev, che comunque, come potete vedere, sì, è vero, è un esempio di terza via, però tutto sommato è una posizione che è ancora molto in linea con le aspettative del marxismo-leninismo. E infatti questa è la posizione che poi sarà la posizione ufficiale dell'Unione Sovietica con rispetto ai paesi interni a maggioranza musulmana. Il lavoro che fa Sultan Aliyev all'interno del Comitato Centrale dei Musulmani è quello che poi stabilisce appunto le linee di interazione con le repubbliche dell'Asia centrale. È veramente l'unica posizione che lo separa, no? Dal resto dei bolscevichi, è questa sua capacità di analisi che gli permette di dire, di comprendere, di immaginare l'Unione Sovietica comunque come un paese imperialista, un paese coloniale. E questa è di fatto la parte del suo pensiero che viene soppressa. Negli anni successivi, i compagni dei vari partiti bolscevichi delle varie repubbliche dell'Asia centrale, appunto di tradizione musulmana, che parleranno per qualsiasi motivo contro il partito centrale dell'Unione Sovietica, verranno accusati di Sultan Galievismo. Quindi questo diventa poi anche appunto una comoda etichetta, no? Per di fatto identificare quelli che diventeranno i nuovi nemici dello Stato. E non vorrei parlare in eterno perché mi rendo conto che non tutti sono appassionati di filosofia marxista in Asia centrale, anche se spero che dopo questa puntata ne vogliate sapere di più. Se c'è una cosa che penso sia importante portarsi via da quello di cui abbiamo parlato oggi, dall'esperienza di Mir Said Sultan Aliyev, è quanto sia facile perdere informazioni nella storia. quando queste vengono offuscate. E quanto è stato facile relativamente eliminare completamente una discussione sull'anticolonialismo che all'interno dell'Unione Sovietica era arrivata negli anni 20, perché c'era materiale, c'erano scritti, c'erano dialoghi tra pensatori dell'Asia centrale. Io vi ho parlato di Mirza Sultan Aliyev, però non è stato l'unico, che già vedevano una serie di trend che poi si sarebbero concretizzati dopo. Quanto è stato facile eliminare questa generazione di pensatori? Quanto è stato facile far passare l'idea che ogni critica di colonialismo e imperialismo nei confronti dell'Unione Sovietica negli anni successivi era una critica borghese? E questa critica di Sultan Aliyev, in fin dei conti, arrivava da un personaggio che sì, appunto, ha trovato una via, no, di commissione dell'Islam, che però era ancora abbastanza in seno alle aspettative del marxismo-leninismo. Quindi questa serie di... Quindi che tutto sommato arrivava da una persona che era sicura, che era amica a questa serie di iniziative. Una persona che aveva lavorato tantissimo in Asia centrale, che ha fatto un lavoro di traduzione, non soltanto di traduzione tra lingue, ma proprio di traduzione anche ideologica di concetti, appunto, del marxismo-leninismo in termini che potessero essere compresi dalla popolazione locale. E questo concetto di traduzione è un concetto che torna spesso all'interno del pensiero di queste persone che appunto cercano di trovare questa terza via, no? Quindi l'idea è quella di prendere le idee del marxismo e tradurle all'interno di concetti dell'Islam. Abbiamo visto che Sultan Aliyev lo fa in maniera molto, molto iniziale. Il grosso del suo pensiero, appunto, si articola attorno a una critica del colonialismo. Ma il pensatore di cui parleremo la prossima volta, invece, riesce a costruire un impianto ideologico proprio di unificazione di una serie di concetti pilastro del marxismo e concetti pilastro dell'Islam, che invece è molto più sofisticata di quella di cui abbiamo parlato oggi. Quindi la prossima volta, che ancora non so tra quanto sarà, parleremo del modello invece di Ali Shariati. E quindi per oggi è tutto, grazie per avermi ascoltata. Ai microfoni c'era Strelka, questa puntata è stata montata da Belka e quella che avete appena ascoltato è Lorda d'Oro. Time is right.